Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Le palline colorate alle sbarre, i regali dentro la cella e il presepe con i pastori. Natale arriva anche dentro le carceri, soprattutto per quei bimbi piccolissimi che vivono reclusi lì con le loro madri. Per loro il cielo è quasi sempre delimitato dalle grate delle finestre e per loro, ma soprattutto per tutti gli altri detenuti, quelli grandi delle carceri italiane, il 2009 è stato un anno di grande tensione, con molti problemi, a cominciare da un affollamento record, da cifre drammaticamente record di suicidi, con qualche protesta qua e là e una tensione progressivamente nascente. E per questo andiamo ora a dare uno sguardo all'interno delle carceri e attraverso tutti i principali casi di cronaca di questo 2009 che volge alla conclusione con Leo Beneducci, segretario dell'OSAP, uno dei sindacati di polizia penitenziaria, per capire com'è innanzitutto ora la situazione all'interno delle carceri. Incerta, questo al di là delle tensioni che ci sono, al di là delle paure che sono aumentate. C'è stato il caso Cucchi, c'è stato il caso di Perugia, di Bologna, di Parma. Andremo adesso a parlarne nel dettaglio sia di alcune di queste vicende a cui lei ha fatto riferimento, sia anche al discorso strutture e sistema penitenziario e anche personale. Quando lei definisce incerta la situazione delle carceri, che vuol dire incerta? Perché potrebbe evolvere anche in una maggiore criticità. Abbiamo visto notizie qua e là di lenzuola incendiate a Padova, di proteste di vario tipo in più istituti. Che vuol dire incerta? È preoccupato che possa esserci una rivolta? Anche, ma più che una rivolta, un insieme di situazioni che potrebbero mettere a rischio l'incolumità del personale, ma anche l'incolumità dell'utenza. Non dimentichiamo che noi chiudiamo l'anno a 66.000 detenuti. Rispetto alla cifra considerata tollerabile? La capienza cosiddetta regolamentare, quella ordinaria, per intenderci, due detenuti in istanze che ne prevedono due e non tre o quattro, era 43.000. Da considerare che però i posti letto sono diminuiti perché molte opere di ristrutturazione e adeguamento dei locali sono state avviate, quindi noi, secondo le nostre stime ovviamente, non secondo le stime dell'amministrazione, abbiamo considerato una capienza regolamentare non oltre 40.000 detenuti ed una capienza tollerabile intorno ai 59.000, quindi secondo le nostre stime siamo di 7.000 detenuti oltre la capienza tollerabile. Questo è il primo, diciamo, motivo di incertezza, perché ovviamente se mancano gli spazi significa anche una maggiore promiscuità, quindi una minore sicurezza per l'istituzione, per il personale e anche per gli stessi detenuti. Ecco, segretario, quali sono le realtà più critiche e che preoccupano di più? Noi abbiamo superato la capienza tollerabile essenzialmente in tre regioni, in Emilia-Romagna, Veneto e in Lombardia. E sono le regioni dove più si fa sentire il problema dell'immigrazione. E questo è il primo dato di fatto, insomma, che al nord ci sono più detenuti stranieri che detenuti italiani. Lei ha citato le regioni e quindi immagino che il riferimento vada soprattutto agli istituti dei capoluoghi con maggiori criticità per il sovraffollamento, ma in questi giorni si sono registrati appunto in più realtà anche degli episodi di proteste con anche mini rivolte come quella di Padova, dove sono state anche incendiate delle lenzuola. I segnali di una protesta che assuma dei toni anche potenzialmente più pericolosi, lei dove li vede? Sicuramente in quelle regioni che ho citato, quindi nei capoluoghi, parliamo per esempio di San Vittore, come Lombardia, Milano, ma anche a Monza, Como, oppure a Padova per quanto riguarda il Triveneto, Padova è l'istituto più grande del Triveneto, oppure Bologna o Parma. Ma quando io parlavo di conseguenze non ho soltanto timore di protesta, dico che la promiscuità, soprattutto in istituti dove è alta la presenza di affiliate associazioni criminali, cosiddetti AS, alta sicurezza, c'è anche la possibilità di creare nuove alleanze tra detenuti di varie associazioni criminali. Questo è il pericolo, credo più grande, che fino adesso il carcere è riuscito in un certo modo a limitare, che però voglio dire, laddove saltano le regole, laddove il sovraffollamento fa saltare tutti i criteri, i parametri che vengono utilizzati di separazione dei detenuti, è chiaro che il carcere non riesce più a affrontare questo tipo di realtà e si possono creare sul territorio situazioni anche di pericolo. Ci dia qualche riferimento un po' più concreto di qualche realtà. Ecco, si sta parlando di nuovi fenomeni di terrorismo politico, sicuramente ambiente fertile, luogo fertile a oggi è un carcere sovraffollato. Mi riferisco per esempio agli ordigni di Milano, si parla tantissimo di terrorismo internazionale, cioè Al-Qaeda ancora imperversa, molto spesso ci è capitato di assistere alla presenza di detenuti cosiddetti alias, che stavano dentro per reati minimi e che invece erano ricercati a livello internazionale perché coinvolti in associazioni terroristiche anche rilevanti. Ecco, segretario, rispetto sì. alle questioni che lei ha citato, avete dei segnali di questo tipo? Ad esempio, questione violenza e il dibattito su un rischio, diciamo, di ritorno del terrorismo e della violenza degli anni 70. Le risultano all'interno delle carceri dei fermenti di questo tipo? Ma a noi risultano segnali in ogni momento su questo tipo di situazione, come risultano segnali in questo momento che in un'area, quella dei detenuti ad alta sicurezza, a volte ci siano incontri o comunque strani connubi tra detenuti affiliati, che voglio dire, al clan dei Casalesi e detenuti appartenenti all'Andrangheta o alle associazioni, diciamo, mafiose propriamente dette. Cioè questi sono segnali a cui assistiamo ogni giorno. Tenga presente che noi abbiamo 66.000 detenuti, che è il dato massimo raggiunto nella storia repubblicana dei detenuti presenti, ma siamo in servizio presenti 41.000, meno di quando i detenuti erano, tanto per intenderci, 50.000, meno di quando è stato approvato nel 2006 l'indulto. Cioè il personale nel frattempo è sicuramente diminuito, perché non c'è il turnover, perché ovviamente si tende, essendo anche un lavoro posturante, l'età media aumenta e quindi si tende ad uscire prima dall'attività lavorativa per andare in quiescenza. Ci arriviamo subito, anche perché questo è stato anche un anno in cui si sono anche registrate diverse aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria e si è discusso molto anche di questo. Ma ritornando a quello che lei diceva poco fa, dei segnali che voi spesso registrate rispetto a un fermento di violenza interna, da quali realtà, da quali regioni o da quali istituti, e se ci può dare qualche riferimento più concreto? Io le posso dire, allora, mentre il problema del terrorismo è un dato di fatto, cioè nel senso che il sovraffollamento, l'assenza dei controlli rende il carcere terreno di affiliazione. Per quanto riguarda le associazioni criminali di stampo mafioso, questo è un dato di fatto proprio nella realtà dove questo tipo di detenuto è concentrato. Non dimentichiamo, io questo lo dico sempre perché è un dato storico, che l'omicidio di Falcone, del giudice Falcone, fu deciso, tra virgolette, nel carcere di Spoleto, dove c'era un'altissima concentrazione dei cosiddetti detenuti del 41 bis. Anche il 41 bis è cambiato e apparentemente è cambiato in maniera maggiormente repressiva, però c'è i detenuti per i quali non si è potuto mantenere il cosiddetto 41 bis in quest'area, per esempio, sopravvive la possibilità di creare nuove affiliazioni e nuovi accordi. Le risultino degli episodi concreti di... Episodi concreti ancora no, perché li avremmo segnalati. Quando io parlavo di incertezza, ci piacerebbe che poi ci fosse un'autorità politica, il Ministro della Giustizia, o un'autorità amministrativa, il capo del Dipartimento, che si occupasse direttamente di noi. Quando io parlavo all'inizio di incertezza è perché i segnali che abbiamo, una fra tutti, il cosiddetto piano carcere, un anno che se ne parla, è un piano essenzialmente fatto di annunci, di avvii in Consiglio dei Ministri, di rinvii a sine die, e poi questo piano carcere non ha mai, anche se è un piano essenzialmente legato alla realizzazione di nuove infrastrutture. Per questo anche voi avete salutato con soddisfazione la recente nomina del procuratore generale di Catania Giovanni Tinebra a consulente sulla riforma della giustizia del Guardasigilli. Sì, assolutamente sì, come sindacato credo siamo stati pressoché gli unici a farlo, il motivo è essenzialmente perché mentre la riforma della giustizia, un magistrato che ha un'esperienza pluriennale nella gestione anche del corpo di polizia penitenziaria, significa non sottovalutare la necessità che tra le varie riforme da attuare per la giustizia ci possa essere una riforma del sistema penitenziario ed una riforma che in prima persona tocchi gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Non dimentichiamo che la nostra riforma data a 20 anni or sono, quando i detenuti erano 30-35 mila. Quindi un rapporto sicuramente squilibrato, quello tra il massimo di ospiti all'interno degli istituti penitenziari italiani e un numero basso, voi denunciati, di agenti penitenziari. Dicevamo che quest'anno si sono anche registrati episodi di aggressioni. Quali sono state le realtà e quali sono stati gli episodi più critici? I dati che noi abbiamo raccolto sul territorio ci davano mediamente dalle 3 alle 4 aggressioni gravi, con certificati medici di prognosi superiore ai 7 giorni lavorativi. Siamo nell'ordine dei 1.300-1.400 casi complessivi di aggressione grave. Abbiamo avuto dei colleghi sfregiati da lame realizzate con coperti di scatolette tipo tonno e così via. Il carcere di Sulmona, che è successo? Ma nel carcere di Sulmona c'è stata una situazione come quella di altri istituti, cioè noi abbiamo assistito ad un aumento della produzione detenuta, ma allo stesso tempo una situazione di grande responsabilità sia del personale che dei detenuti. Quindi è ovvio che quando ci si trova con un agente in sezione che ne deve reggere 100 e si viene chiamati, si deve intervenire in cella per un'emergenza. Non dimentichiamo per esempio che noi abbiamo avuto una riforma della sanità penitenziaria tale che il personale medico e paramedico non c'è o c'è soltanto in determinati orari, perché sarebbero tenute ad intervenire le cosiddette aziende sanitarie locali. In alcuni casi purtroppo siamo noi che dobbiamo sopperire alla carenza del sistema. Quest'anno ci sono stati almeno fino adesso 171 persone morte in carcere per varie vicende, 69 i suicidi. Sono cifre che le associazioni tutte dicono essere record. Sono sicuramente cifre record legate e poi essenzialmente a tre fattori. Ovviamente la percentuale in aumento perché aumentano i detenuti. Secondariamente diminuisce il personale. Mediamente ogni suicidio che si realizza ce ne sono altri 10 o più che la polizia penitenziaria riesce a prevenire. Il terzo problema, ritengo il più grave, in Italia progressivamente alla pena che viene comminata dal giudice si è aggiunta la pena dell'affrontare questo tipo di carcerazione, quindi esiste una pena nella pena e ovviamente questo comporta tutta una serie di conseguenze anche in termini di depressioni che capitano tra l'altro ai detenuti e al personale, anche se il numero dei suicidi è nettamente inferiore, però è in aumento per esempio il numero di agenti di polizia penitenziaria che sono in convalescenza o chiedono il pensionamento per malattie di natura psichica. Le carceri italiane sono malate? Sono in assoluto tracollo, sono in agonia, sono vicino al decesso definitivo del sistema rispetto ad altri. Lei teme che possa esserci a breve una rivolta di quelle preoccupanti? L'abbiamo tenuto dall'inizio dell'anno, l'abbiamo cominciato a tenere da quando c'era stato un indulto che aveva portato fuori dal carcere 27.000 detenuti, ma ne rientravano non degli indultati, ma in generale ne rientravano una media di 1.000 al mese. Non temo una rivolta immediata, ma penso che poi la rivolta sia qualcosa da mettere in conto. Storielle. Storiacce. Una rivolta è da mettere in conto. Fino ad ora ci sono state delle proteste qua e là, ma l'atmosfera nelle carceri italiane, complice un sovraffollamento record, è davvero critica. Ed è per questo che il segretario dell'OSAP, uno dei sindacati di polizia penitenziaria, teme, come ha detto nella prima parte, che la situazione possa degenerare. Allora andiamo ad affrontare ora alcuni dei principali casi di cronaca che hanno coinvolto e spesso messo sotto accusa nel 2019 gli istituti di pena. Leo Beneducci. La polizia penitenziaria e le carceri sono state messe sotto accusa per il caso Cucchi, la morte di un ragazzo tossicodipendente che era stato arrestato e che pochi giorni dopo è morto. C'è un'inchiesta in corso, per cui è evidente che tutte le singole responsabilità spetta alla magistratura accertarle, però rispetto a vicende di questo tipo, lei che appunto è il segretario di uno dei principali sindacati della polizia penitenziaria, di fronte a questo caso che cosa ha pensato? Succedono episodi del genere? No, a parte il caso Cucchi, che è un episodio diciamo tra virgolette al limite, perché Cucchi quando diciamo sarebbe avvenuto l'aggressione non era ancora un detenuto, quindi non è un evento che può essere associato a violenza in carcere, semmai violenza c'è stata prima dell'ingresso in carcere, ma voglio dire, sul caso Cucchi come sindacato siamo intervenuti da subito, escludendo la possibilità di responsabilità degli agenti che comunque sono coinvolti, cioè come diceva lei, un'inchiesta dell'autorità giudiziaria. In generale non possono avvenire, non avvengono mai episodi di questo tipo. Possono esserci, ci sono stati purtroppo episodi legati ovviamente ad altre realtà strettamente contingenti, quindi locali, di violenza, ma violenza come reazione. Non può accadere che ci sia una violenza organizzata di qualsiasi tipo all'interno del carcere, meno che mai da parte di appartenenti ad una forza di polizia. Ovviamente lei anche per il suo ruolo è naturale, diciamo, che dica quello che ha detto, ma al di là di una difesa d'ufficio della categoria, lei potrebbe essere certo che non succedano episodi del genere, che singole persone possano in qualche modo aver commesso, al di là della specificità della vicenda Cucchi, possano a volte eccedere nei modi? Diciamo il caso Cucchi è un caso limite, ma anche per le modalità della cosiddetta violenza, perché c'è stata una serie di ripetute di percorso. C'è stata all'interno della polizia penitenziaria una crescita culturale e professionale in questi anni che ha portato a dover limitare episodi anche di reazione. Io non posso escludere che a fronte di atteggiamenti, lei ricorderà sicuramente quello che si è detto durante il cosiddetto caso Teramo, ricordo almeno una quindicina di giorni continuativi in cui c'era questa registrazione del comandante che avrebbe parlato di come si massacrava un detenuto non davanti agli altri ma in altre realtà. Sono per quello che mi costa, lo dico sinceramente senza dover assumermi l'onere di fare da difensore di ufficio, posso escludere che ci siano violenze deliberate organizzate da parte di poliziotti e penitenziari nei confronti di detenuti. Non posso escludere purtroppo però che ci possano essere singoli episodi in cui ad un atto che possa ritenersi violento ci possa essere una reazione anche forte, ma questo non è il caso Cucchi, non è il caso del detenuto di Perugia e non è ovviamente il caso che sarebbe occorso a Teramo, questo lo posso dire sinceramente, anche perché se noi fossimo nella condizione di dover reggere il sistema penitenziario non sulla responsabilizzazione, sul coinvolgimento, collaborazione del detenuto, ma sulla violenza il sistema penitenziario sarebbe esploso con gravissime conseguenze da tempo, invece ancora regge. Vi stanno creando qualche problema organizzativo i primi detenuti di Guantanamo arrivati nelle nostre carceri? No, non ho questo dato, tanto siamo abituati a ben altro, quindi non abbiamo questo, chiaramente c'è un livello di attenzione tale. Immagini per esempio il detenuto Battaglia alloggiato al centro clinico psichiatrico di San Vittore, no? Quindi è ovvio che lì è richiesta, ma per incomunicazione, la sorveglianza a vista, quindi c'è necessità di un agente per ciascun turno che sia dedicato esclusivamente a un detenuto. E questi di Guantanamo in che regime sono? Che tipo di sorveglianza? Quindi è solo un problema di quel tipo al momento, è solo un problema legato alla necessità di dover vigilare e a rischio, tra virgolette, che se qualcosa succede poi sia il personale più che l'istituzione a dover pagare in prima persona, ma esclusivamente questo, non altro. Quindi sono sorvegliati costantemente? C'è una sorveglianza particolare, come del resto in questi casi è richiesto, quindi la sorveglianza particolare rispetto alla sorveglianza ordinaria, ci sono varie tipologie, nel tecnico non ci entro, la sorveglianza particolare ovviamente sottrae unità, come l'aumento di servizi anche esterni sottrae unità all'attività, diciamo, penitenziaria di controllo propriamente detta. Questo è di quanti agenti avreste bisogno? Quanti agenti in più voi vorreste? Siamo in servizio circa 41.000, l'organico è di 45.212, le cifre però sono cifre del 1992, cioè noi questa dotazione organica l'abbiamo avuta nel 1992 assumendo il servizio delle traduzioni che aveva l'Arma dei Carabinieri, e quanti detenuti, l'ho detto prima, erano 35.000. Quindi consideri che al di là del fatto che 44.000 agenti, che sono quelli che mancherebbero sulla carta, sono più o meno dislocati sui vari luoghi, quindi non sono quindi parliamo di sovrintendenti, parliamo di ispettori e parliamo di commissari, quindi non sarebbero diciamo assumibili da oggi al domani, ma anche tramite procedure concorsuali anche di tipo interno. Ma noi avremmo necessità, rispetto ai 66.000 detenuti o a quelli che ulteriori, tra l'altro il ministro Alfano ha parlato recentemente di 47 padiglioni per 9.600 ulteriori posti detenuti. Noi avremo bisogno già oggi come oggi di portare il nostro organico da 45.212 a 50.000. Quindi 50.000 agenti. Ecco, segretario, l'ultima cosa che vorrei chiedere, sì. In molti dicono serve un garante nazionale dei diritti dei detenuti. Lei come segretario degli agenti di polizia penitenziaria cosa ne pensa? Ma penso che sicuramente è una richiesta e un'esigenza che è legata alla civiltà di un paese. Non a caso si dice che la civiltà di uno Stato si misura dal grado di umanità e di civiltà delle proprie carceri. Quindi nulla questo. Spesso penso che, ma non perché mi metto in contrapposizione con le esigenze spesso legittime della popolazione detenuta, considerando che né il ministro Alfano né il presidente Ionta, capo del DAP, fanno altrettanto, forse ci vorrebbe un garante anche della polizia penitenziaria, anche perché, voglio dire, tra virgolette, noi siamo un sindacato che svolge la propria, noi e gli altri sindacati della polizia penitenziaria, che svolge la propria azione all'interno di regole abbastanza rigide. Non abbiamo diritto allo sciopero, non possiamo manifestare entro certi canoni, quindi voglio dire, siamo di garanzia rispetto ai diritti fino a un certo punto, riusciamo ad esserlo, quindi probabilmente un garante anche per i poliziotti penitenziari o un ministro, lo dico senza livore, un ministro maggiormente attento ai problemi del carcere, probabilmente servirebbero in questo momento.